Vendo tutto di Matteo Caccia. La mia Vespa pesa 40 kg, il televisore 15, la macchina fotografica 9 etti, la Vespa un quintale. La mia collezione di topolini invece di chili ne pesa 17, i miei sci 2 e gli screponi 3. Ma a me non interessa più, perché ho deciso di alleggerirmi di tutto. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato, dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso. Vendo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova, venite a comprarvela. La vendita è aperta, oggi vendo il mio computer portatile. Buongiorno a tutti, sono le 16:09, oggi è lunedì 8 febbraio 2011, sono già avanti di un anno, forse è la paura del 2012. Lunedì 8 febbraio 2010, non so se è il weekend che vi aiuta a concentrarvi, a stilare la vostra lista dei desideri. Sta di fatto che, avendo tutto, chiocciolaradio24.it, ma anche sul profilo Facebook, sono arrivate diverse liste di desideri di voi ascoltatori e quindi, visto che alla fine io vi propino sempre la mia, mi sembra giusto propinarvi anche le vostre. Prendere un appartamento a Londra, conoscere Takashi Murakami e comprare una sua opera, aprire un negozio di abbigliamento come dico io, andare in America e visitare i musei con le opere di Andy Warhol, andare al Polo Nord, in Australia e in Giappone, fare un safari e nuotare nell'oceano, apparire sulla copertina di Interview, visitare il Bread and Butter a Berlino, fare un giro in elicottero, inventare qualcosa, partecipare ad una Dakar, anche se da spettatore. Questi sono i desideri di Andrea dalla provincia di Venezia. Devo dire, Andrea deve essere un ascoltatore molto raffinato, nonostante i suoi 20 anni, perché dice: non sono molti punti, cioè quelli della lista, ma avendo solo 20 anni ho ancora tempo davanti. Però nonostante tutto, Andrea, dobbiamo ammettere che in redazione tutti quanti abbiamo strabuzzato tanti d'occhi quando tu ci hai citato la copertina di Interview, ad esempio, o questo Bread and Butter a Berlino. Ci perdonerai l'ignoranza, ma magari se ci dici anche un tantino cos'è, se qualcuno magari lo sa che cos'è il Bread and Butter a Berlino o dovunque si tenga, 349-238-6666 oppure vendo tutto chiocciolaradio24.it. Veniamo però al punto di oggi, ringraziamo chiaramente Andrea e aspetto le vostre liste dei desideri. Torniamo ad oggi però, perché oggi è una giornata particolare, perché racconto del mio computer, il mio computer portatile. Sapete che ci sono degli oggetti, no? Che quando li guardate, per quanto abbiano anni di vita, vi viene in mente una cosa in particolare. Io quando guardo questo computer portatile che vendo oggi, mi viene in mente quella volta in cui la mia ex mi ha sgamato una cosa che non doveva beccare in quel computer lì, ok? Quindi vorrei il vostro supporto oggi, vorrei che mi chiamaste all'800 24 00 24, mi raccontaste che anche voi siete stati beccati, siete stati colti, magari non proprio in flagrante, però siete stati beccati dalla vostra fidanzata, la vostra madre, quando eravate piccoli e nascondavate i giornaletti nel sottofondo del cassetto come facevo io, oppure dalla vostra maestra, dalla vostra professoressa al lavoro. 800 24 00 24, per non farmi sentire solo e farmi sapere che anche voi siete stati beccati quella volta, e magari perché semplicemente non avevate nascosto bene quell'oggetto o quella cosa o quella storia banalmente. A proposito di storie, oggi vendo il mio computer, se lo volete vedere, come al solito, radio24.it, per sentire la sua e anche un po' mia storia. Eccoci qua. Il computer. Apple Macintosh PowerBook G4 12 pollici alluminio. Altezza 3 cm, larghezza 27,7 cm, profondità 21,9 cm, peso 2,1 kg con batteria. Anno 2005. Processore PowerPC G4 a 867 MHz, una porta FireWire, due porte USB, schermo a matrice attiva da 12,1 pollici, memoria RAM di 256 MB, disco rigido di 40 GB. Computer resistente e super portatile, perfetto per chi vuole guardare con aria di sufficienza tutti i possessori di PC. Valore commerciale 300 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it, per la diretta 800 24 00 24. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Tutti noi abbiamo qualcosa da nascondere. Da sempre. Fin da quando esistono i rapporti tra le persone. Da quando due Homo sapiens si sono accorti che vivere in gruppo era meglio che vivere da soli. Secondo me, hanno iniziato ad avere dei segreti. Non so perché, però, è come se per mantenere un equilibrio personale ognuno di noi dovesse avere delle cose che tiene solo ed esclusivamente per sé e per nessun altro. Alcuni segreti sono fatti, o pensieri, cose impalpabili comunque, che possiamo tenere nascosti nella nostra testa o in fondo allo stomaco. Le prime volte in cui si marina la scuola, ad esempio, o che si dà un bacio ad una ragazza. E che i primi segreti servono un po' per diventare grandi. La prima volta che ho visto una donna nuda in un film avevo 13 anni. E mi ricordo che quando sono rientrato a casa mi sentivo diverso. Forse un po' più maturo, forse un po' più in imbarazzo, però diverso. E il motivo era proprio quello lì. Che non dovevo condividere con nessuno quello che avevo visto. Perché era una cosa che non si doveva fare. I segreti tangibili, invece, come la prima lettera d'amore che i miei non dovevano vedere, o i giornaletti comprati all'edicola del paese, quelli li nascondevo nel sottofondo del cassetto per le calze. Ora, invece, tutto lo nascondiamo nel computer. Credo che ognuno di noi abbia qualcosa, anche piccola, anche innocua, nascosta in un file che si trova in una cartella senza nome all'interno di un'altra cartella con un nome innocente, che è in fondo all'hard disk del proprio computer. Pensarci bene, per quanto mi riguarda, quasi tutto di quello che devo nascondere è nascosto nel mio computer. Per un motivo molto semplice. Che nel mio computer portatile c'è tutto quello di cui ho bisogno. Nel computer di ognuno c'è tutto ciò che serve per fare, per vedere, sentire, sfogliare, scrivere, prenotare, informare. Cioè, in teoria, non servono più la TV, la radio, i dizionari, le agenzie di viaggio, i cinema, i libri di cucina, gli album fotografici, le agende, i calendari. Insomma, in teoria, ovviamente. Perché in pratica poi non è così. Io credo che siano dei falsi profeti quelli secondo cui di questo passo la gente non uscirà più di casa. Se andiamo avanti così non ci saranno più i libri, non ci saranno più i giornali. Non credetegli. Non è vero. Nonostante i social network, la gente continua ad uscire per incontrarsi. Nonostante i film su internet, le persone riempiono ancora i cinema. Quello che è vero però è che il computer è il luogo ideale dove nascondere quello che non vogliamo far vedere a nessuno. Foto, filmati, lettere. Basta creargli uno spazio apposta e poi chiudere tutto con una chiave. Una parolina di almeno 6 lettere. La password. All'inizio della mia relazione con Giulia non avevo messo nessuna password al mio computer. Un po' perché all'inizio di una relazione, a meno di non essere un serial killer, si ha ben poco da nascondere, no? Le cose da nascondere si accumulano con il tempo. Infatti poi una password al computer ce l'avevo messa. L'unico problema è che ne avevo scelta una troppo facile da intuire. Ecco perché, se posso darvi un consiglio riguardo alle password, è: se volete nascondere qualcosa ad una persona, non scegliete come password il nome di battesimo di quella persona. An ancient business, a modern piece of glasswork, down on the corner that you walk each day in passing. The elderly sales clerk won't ask with suspicion. The whole of motor corporation's giving its permission. Sì, lo so, Lo so che scegliere Giulia come password in quanto ad idiozia era seconda solo ad inserire la propria data di nascita in numeri. Però è successo tutto troppo in fretta. Nel senso che quando mi sono accorto che forse c'erano delle cose che era meglio che lei non vedesse o non leggesse, la situazione era tale per cui dovevo in pochi secondi decidere una parola di almeno 6 lettere e inserirla in quel rettangolino bianco di fianco alla scritta password. Anche perché lei stava uscendo dalla doccia e io avevo sullo schermo una foto che non andava vista. Ora, se vi aspettate che vi dica qual era la foto che era meglio che Giulia non vedesse, vi sbagliate. Non l'ho mostrata a lei, non mi metterò certo a raccontarla a voi. Anche perché in fondo forse lo sapete già. Basta che pensiate a quella foto o a quella mail che avete nel vostro computer. O anzi no, non ce l'avete nel vostro computer. Non ce l'avete perché sapevate che era meglio non tenerla in un posto dove vostra moglie, il vostro fidanzato potessero vederla e quindi, dopo averla letta o guardata, l'avete cancellata immediatamente. Ecco, bravi. Era una cosa simile a quella che state pensando. Solo che in quel momento lei stava uscendo dalla doccia, io mi trovavo davanti al dilemma della scelta della password e non lo so, forse per il senso di colpa, però la prima cosa che mi è venuta in mente è stato il suo nome. Solo che lei deve essersi insospettita, c'aveva pure ragione, visto che fino a quel giorno il computer era utilizzabile da chiunque. E da quel giorno in poi, solo da me. Quindi credo sia successo proprio per questo. Per una forma di curiosità mista a sospetto. Insomma, lei un giorno ha aspettato che non fossi in casa per scoprire cosa c'era nascosto in quel computer. Insomma, inutile dire che l'ha scoperto. O meglio, non ha scoperto quello che secondo me era da scoprire, ma quello che non immaginavo nemmeno fosse un problema che scoprisse. È strano, eh? Come a 30 anni suonati io non abbia ancora capito come certe cose, che a me sembrano innocue, per una donna invece sono un atto di lesa maestà. Quello che sto dicendo è che Giulia non ha trovato la foto o la mail che anche voi nascondete nel vostro computer. No, probabilmente non l'ha trovata perché era nascosta bene. Però ha trovato una foto che, giuro, per me era una foto del tutto innocente. Era uno scatto di 3 anni prima che la mia ex aveva ritrovato in una macchina digitale e mi aveva mandato via mail. Punto. Sì, e allora perché ce l'hai sulla scrivania? Ma no, Giulia, ma me l'ha mandata Paola ieri, te lo giuro. Perché te l'ha mandata? Ma non lo so perché me l'ha mandata, ma vedi, guarda, erano 4 anni fa, c'avevo 29 anni, non è vero? Ma sì che è vero! Insomma, non è stato facile, ma la calma quel giorno è tornata. Ovviamente, con questo computer ci ho fatto molto di altro e di più interessante, eh? Ci ho visto decine di film, scritte migliaia di cose, ascoltate milioni di canzoni, sfogliato foto, pagine di giornali, prenotato voli aerei. Viste le sue dimensioni, me lo sono portato ovunque. Eppure, se lo guardo, questa è ancora la prima storia che mi viene in mente. Ecco perché nonostante tutto, nonostante la password e le cose da nascondere, questo Macintosh è in vendita. Il suo valore sul mercato sono 300 euro. L'asta qui, però, parte a 99 centesimi. Per raccontarmi di quella volta in cui anche voi siete stati smascherati, 80024 0024. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed when you held me. Sunny, sunny one so true, I love you. Sono le 16.22, questa è Radio 24, 349-238-6666, mi scrivono, i file li tengo in un server remoto in California, posso consegnarle il Mac completamente aperto, Ale da Senigallia. E poi ancora, la mia cartella nascosta si chiama Milan Real Madrid, ciao Sergio. E poi ringrazio anche Fabrizio da Valenza, anche se Fabrizio, però vorrei dire, Fabrizio, ma che cosa c'è? Qual è il problema? Se vuoi vieni qui e ne parliamo insieme. Invece 80024 0024, perché non sono stato l'unico ad essere stato beccato in flagrante, ma anche Peter da Bari. Pronto Peter? Ciao a tutti. Ciao Peter, guarda, anche meno, se ti sento un po' su. Cos'è successo? Ma io come al solito sono sempre tu felice. Sei sempre così. Ma sì, dimmi, hanno Peter. Beccato perché è stato bellissimo. Dimmi com'è successo. Siccome avevo un bel passato estroso, mi metto con una ragazza, dico ok, mi cancello da tutte le chat. Ah ok, allora facciamo un passo indietro. Quanti anni hai tu, Peter? Ma io sono un ragazzino di 40 anni. Ok, e quindi avevi un passato burrascoso dovuto a quello, dovuto ai siti di incontri. Sì, diciamo che più che altro fraternizzo facilmente, anche al bar. Perfetto, va bene. Quindi arriviamo al dunque. Ti sei cancellato da tutti i siti di incontri? No, io in realtà tutti i siti, meno uno, avevano degli indirizzi mail che non venivano scaricati da Outlook. Ok. Tranne uno. Dove mi è arrivata un'unica mail del mio più caro amico. Cioè, ti è arrivata una mail del tuo amico e okay, ok, ma cosa c'entra con la fidanzata, scusami? È che io non dovevo essere presente. Ah, ok, quindi addirittura... è arrivata l'email da Badu. Ok, ok, quindi semplicemente ti ha beccato che eri iscritto ad un sito di incontri, cosa che non si fa. No, benissimo. Cosa che avevo promesso di... Com'è finita? Com'è finita, Peter? Ma diciamo che sono stato fortunato, perché okay, quello lì ha lasciato... poi il tempo che trova, grazie al fatto che non si trovava nessuna registrazione per tutta una serie di motivi. Ok, ma per capire, ti ha lasciato oppure no? No, per okay, quella cosa no. Quella l'abbiamo portata a casa. Ci siamo lasciati dopo. Bravo Peter, ciao, buona giornata, grazie. Cancellati ciao, da ciao. Tutto, cancellati. Andiamo a Torino da Alessio, pronto? Pronti. Ciao Alessio, ciao, buongiorno. Tutti. Come stai? Benissimo. Raccontami come sei stato beccato. Anch'io avevo lasciato inavvertitamente delle fotografie riguardanti la mia precedente relazione con la mia ex fidanzata nel PC, uh-huh, e praticamente con la nuova fidanzata con la quale convivo tuttora e con la quale ho un rapporto apertissimo, il computer apertissimo a tutte e due, e purtroppo me l'ha beccato e non vi dico quello che è successo. Proprio... Cioè, però era innocente la cosa. Era innocente se non fosse per il fatto che ancora magari io sentivo qualche volta la mia ex fidanzata e lei questo l'avevo omesso, quindi ah, okay, ecco, okay. C'è stato qualche problemuccio, ecco. Quindi è la solita gelosia retrattiva. Ti ringrazio, buona giornata. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Andiamo a Paolo dalla provincia di Pistoia, pronto? Ciao. Ciao Paolo, dimmi tutto, confessati. Niente, io in questo momento sono dall'avvocato per cercare la mia moglie. Scusami, sei dall'avvocato? Perdonami, ti ho perso. Per separarmi da mia moglie. Ah, quindi siamo proprio in medias res, oserei dire. Sì, però il problema era un altro. Era la fidanzata. Praticamente sono separato in casa già da diverso tempo, quindi avevo già una relazione. Sì. E questa ragazza gli disse che io avevo un segreto. Sì. E questo segreto, se l'avesse scoperto, l'avrei lasciato. Ultimamente io sono andato a correre, nel frattempo lei si è intrufolata nel mio computer e ha letto una lettera che ho scritto a mia moglie dove specificavo questo segreto e l'ha letto. Ma scusa Paolo, quindi perdonami, tu te la sei proprio chiamata, cioè tu hai detto che avevi un segreto? Ho detto che avevo un segreto, però lei è andata a guardare sul mio computer. Ah, ok, ok. Ha trovato una lettera sotto... 5 cartelle di sottocartelle, quindi insomma, l'hanno proprio cercata. Ok, l'avevi nascosta, l'avevi proprio infossata bene bene. Sì, ok. Praticamente ha letto questa cosa e ha provato a rimproverarmi di questa cosa qui e io in pratica l'ho lasciata. Ah, ok. Quindi l'hai fatto tu allora al passo. Sì. E soprattutto lascio lei, lascio mia moglie, non scappo, non prendo niente, però avevo tanto voglia di scappare. Lo immagino. Senti, del computer cosa hai fatto invece? Non ha modo di guardarlo perché ho messo la password. Però a questo punto in realtà non c'è più la fidanzata, non c'è più la moglie, la password puoi anche cancellare. Paolo, ti ringrazio molto, ciao, buona giornata, saluta l'avvocato. Invece mi arriva una mail al volo in cui mi dicono che cos'è il bread and butter di Berlino. Il bread and butter, ciao, è una fiera molto cool di moda giovane a cui partecipano solo brand selezionati di tendenza, solo per commercianti, due volte l'anno. Sono le 16:28, questa era Vendo Tutto, questa era Radio 24, io ringrazio, cioè era e continua ad essere Radio 24 ovviamente, io ringrazio Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Pietro Lacorte. I brani di oggi erano due pezzi magnifici, il secondo era di Bobby Hebb, il primo era l'ultimo dei Vampire Weekend, grazie soprattutto a Tiziano Bonini. Domani all'asta va un altro oggetto del mio passato, a cui sono meno affezionato del mio computer, ma che ha un peso notevole. Domani vendo il mio ferro da stiro. Per vedere il mio computer portatile andate sul sito radio24.it. Io continuo a perdere peso e nonostante i ricordi, alla fine anche un computer è solo un computer. Love, love, love.